i cervelli escono ma poi non rientrano, perché non si fa niente per farli rientrare, perché il circolo della gente è molto importante per lo sviluppo scientifico, è importante che i giovani vengano negli Stati Uniti, abbiano un'esperienza scientifica, culturale in un mondo diverso, però poi bisogna dare possibilità a questi giovani di rientrare. Il problema dell'Italia è che c'è poco, si fa molto poco per la ricerca, soprattutto per i giovani, per sviluppare le possibilità di carriera dei giovani nell'ambito della ricerca. Quindi io non vedo con preoccupazione il fatto che i giovani vadano all'estero ad imparare, questo è un fatto estremamente positivo per loro e per la nazione. La tragedia italiana è che non si fa niente o si fa molto poco per supportare la ricerca e supportare questi giovani o facilitare questi giovani rientro in Italia. Vista dall'America, questa tragedia, come la definisce lei, ha dei nomi, ha dei responsabili, ha dei colpevoli? Politici, numero uno, e l'industria, numero due. L'industria italiana purtroppo investe meno, sempre meno nella ricerca, non capendo che senza la ricerca non c'è sviluppo. Quindi c'è proprio una cecità totale che è veramente preoccupante. O si fa qualche cosa, o si fa rapidamente, oppure io credo che il futuro italiano non sia poi tanto bright, eccellente. L'Italia è tra le nazioni in Europa che investe meno nella ricerca. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.isnaf.org. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Andremo in Spagna a conoscere Daniela Piazzolla, restate con noi. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Oggi puntata tutta incentrata sui cervelli in fuga, i ricercatori. La categoria probabilmente più associata nell'opinione pubblica al cosiddetto brain drain italiano. Dopo aver ascoltato la storia di Riccardo Lattanzi, ricercatore a New York, prendiamo un volo di ritorno per l'Europa ed atterriamo nella calda, caldissima meseta di Madrid. Nel cuore della Spagna, nella torrida capitale iberica, incontriamo Daniela Piazzolla, 34enne ricercatrice lombarda. Nome: Daniela. Cognome: Piazzolla. Età: 34 anni. Città di origine: Locati di Triulzi, in provincia di Milano. Studi: laurea in scienze biologiche con indirizzo biomolecolare all'Università degli Studi di Milano e PhD in biologia all'Università di Vienna in Austria. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? A Vienna in Austria. Perché? Per svolgere un dottorato di ricerca ed investire sul mio futuro. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono una ricercatrice postdottorale senior al Centro Nazionale Spagnolo di Ricerca Oncologica. Dove? A Madrid, in Spagna. Tornerai? Tornerei e resterei con piacere se mi venissero offerte le opportunità di crescere professionalmente ed una retribuzione adeguata. Joaquín Salinas, signore! La niña ya no quiere ser princesa y a los niños está por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Joaquín Sabina, pongamos que hablo de Madrid, per entrare subito a ritmo di rock nel vivace mondo della capitale iberica. Sono ancora precaria, ma ho l'opportunità di fare ricerca ad alto livello e di avere un contratto con un salario decente. Scrivi Daniela a giovanitalenti@radio24.it. Ma quanti tuoi colleghi qui in Italia metterebbero la firma per poter dire le stesse cose? Tu però non vivi sulla Luna, ma per l'appunto a Madrid, no? Sì, sì, vivo a Madrid. E allora Daniela, iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato in Spagna. Partiamo con i tuoi studi. Dopo il liceo scientifico ho frequentato la facoltà di scienze biologiche all'Università degli Studi di Milano, cioè la Statale di Milano, e nel 2000 ho conseguito la laurea in biologia con indirizzo biomolecolare con il massimo dei voti. Allora Daniela, parliamo delle tue esperienze successive agli studi. Sì, in realtà proprio per svolgere la mia tesi di laurea ho lavorato 2 anni, dal 98 al 2000, a tempo pieno e non retribuita nel Dipartimento di Genetica e Biologia dei Microrganismi della mia stessa università. Dico, questa esperienza è stata un'esperienza molto positiva, ha rappresentato un po' la prima mia esperienza di laboratorio e tra l'altro, anche se i fondi erano limitati, ho potuto ottenere risultati che sono poi stati pubblicati in riviste di virologia che sono state riconosciute a livello internazionale. E poi succede qualcosa che ti porta in Austria, cosa? Già mentre stavo terminando la mia tesi avevo deciso di svolgere un dottorato di ricerca però avevo deciso che questo dottorato doveva essere retribuito, visto che volevo diventare indipendente economicamente, avevo già 25 anni. Il problema è che in Italia i posti di dottorato offerti annualmente sono molto limitati rispetto al numero di aspiranti dottorandi e solo una frazione di questi sono retribuiti. Per questo, parallelamente a prepararmi al dottorato in Italia, ho anche iniziato a mandare il mio curriculum all'estero e sono stata appunto chiamata per un colloquio di lavoro all'MFPL, cioè al Max Perutz Laboratories, al Vienna Biocenter, che è un istituto che appartiene all'Università di Vienna e all'Università Medica di Vienna. Lì ti viene tra l'altro offerto, tu scrivi a giovanitalenti@radio24.it, un regolare contratto di lavoro, non una borsa di studio come PhD student, e nel 2005 ottieni il PhD in biologia con un sehr gut, cioè equivalente al massimo con lode italiano. E tra l'altro in quel periodo tu fai anche una scoperta interessante. Sì, io scopro nuove funzioni di una proteina che fa parte di una via di trasduzione del segnale, non so se entrare in dettaglio. Non però troppo. Quello che è interessante è che le mie scoperte scientifiche sono state molto apprezzate, ho potuto pubblicarle in eccellenti riviste scientifiche e ho potuto presentare i miei dati in conferenze internazionali e questo è stato anche molto importante per iniziare a entrare in contatto con scienziati riconosciuti a livello internazionale e formare il mio piccolo network scientifico. E poi accade una cosa che devo dire, ogni volta che io leggo cose del genere, un po', se vogliamo, mi stupisco o comunque dico, beh, se così fosse anche in Italia, tu invii 4 curriculum vitae a centri di eccellenza in Europa, 3 su 4 ti rispondono e ti dicono ok, dopodiché tu ne scegli uno che poi è quello dove ti trovi attualmente. Raccontaci un po' questo. Sì, ho inviato il mio curriculum solo a 4 gruppi in 4 centri internazionali in Europa. E praticamente mi hanno risposto in 3, mi hanno invitato per un colloquio di lavoro e poi tutti e 3 mi hanno offerto un lavoro con un contratto regolare. In particolare ho deciso di andare al Centro Nazionale di Investigazione Oncologica appunto a Madrid in Spagna, perché era uno dei centri europei in cui è possibile svolgere ricerca contro il cancro con tutti i mezzi e il sostegno tecnico, le strutture più avanzate disponibili sul commercio al momento, e perché anche il capo che avrei avuto appunto in questo istituto era un capo giovane, riconosciuto a livello internazionale, ben finanziato, e il progetto che mi avevano proposto era assolutamente stimolante. Attualmente tu sei ricercatrice postdottorale senior con un progetto finanziato da un advanced grant dello European Research Council. Esattamente di cosa ti occupi? Io lavoro nel Dipartimento di Oncologia Molecolare e la mia ricerca è mirata a comprendere i ruoli dei geni stem. Sono questi geni che sono importanti per l'identità delle cellule staminali nell'insorgenza del tumore, e questo tipo di ricerca abbastanza innovativa potrebbe aprire la strada a future terapie per combattere il cancro. Raccontaci qualcosa di più del tuo centro. Un dato che mi ha stupito molto è il numero o comunque la percentuale di ricercatori italiani presenti sul totale dei ricercatori stranieri, quasi 1 su 3. Nel Centro Nazionale di Investigazione Oncologica abbiamo 25% di stranieri e di questo 25% la maggioranza italiani. Siamo ben nel 2009 eravamo in 24, credo che siamo anche di più nel 2010. Ma quindi perché? Siamo il 28% degli stranieri sono appunto italiani. Spiegaci come mai? Beh, quando io chiedo ai miei colleghi italiani perché sono venuti qua, la maggior parte di questi rispondono che in Italia non avevano opportunità di lavoro, e inoltre la Spagna è una nazione che per cultura e clima è molto simile all'Italia e quindi qui si sta bene. Tra l'altro il tuo centro è passato dai 94 lavoratori nel 2000 a 500 addirittura nel 2009, 451 impiegati nel settore della ricerca, e gode di quasi 25 milioni di euro di finanziamenti del Ministero Spagnolo della Scienza e della Tecnologia. Sì, è corretto. E tra l'altro è finanziato per la maggior parte principalmente appunto dal governo spagnolo, ed inoltre proprio per la qualità dei suoi ricercatori e progetti riceve fondi per la ricerca anche da organismi nazionali e internazionali, un po' come nel mio caso, e poi viene sostenuto economicamente anche da istituti privati ed imprese. E tra l'altro è un centro giovanissimo, perché l'80% dei lavoratori ha da 40 anni in giù. Tu tra l'altro, lo abbiamo già fatto capire, non hai un contratto stabile, sei di fatto precaria, però la precarietà in Spagna ha un sapore diverso, o sbaglio? Io sono stata sempre precaria da quando ho iniziato qua, perché all'inizio ho iniziato con un contratto postdottorale finanziato da un grant della Comunità Europea, poi ho vinto una borsa di studio della European Molecular Biology Organization, della EMBO, che è proprio mirata a promuovere la mobilità e la formazione professionale dei ricercatori nel campo della biologia molecolare, e questa mi ha finanziato per 2 anni ed è una borsa eccellente. E poi da circa un mese, insomma dal 1 marzo, appunto ho un contratto di lavoro annuale però prolungabile a 4 anni di ricercatore postdoctorale senior finanziato dall'ERC. Sì, è vero, sono una precaria, ma ho la possibilità, come dicevi, di fare fare buona ricerca ad alto livello e posso vivere in modo decente, in modo dignitoso. Non è il massimo, ma questo mi spinge anche a fare il mio lavoro al meglio per naturalmente passare tutte le valutazioni annuali e che in modo tale che il mio contratto venga rinnovato. E quando pensi a un possibile rientro in Italia? Sono un po' pessimista. Perché? Io credo che sia difficilissimo per un ricercatore emigrato all'estero come me rientrare con una posizione, per esempio, di ricercatore all'università. Infatti i posti, che sono tra l'altro mal pagati, sono molto limitati e naturalmente sono ambiti da numerosissimi precari che già sono in lista d'attesa già in Italia. Inoltre le imprese private che investono in ricerca in Italia sono molto poche, quindi se aprono una posizione questa è ambitissima. E quello che penso come me, come prospettiva per entrare in Italia, l'unica prospettiva che vedo è quella di io applicare per un finanziamento internazionale, una volta ottenuto questo finanziamento, chiedere poi ospitalità in un centro di ricerca italiano che mi dia proprio lo spazio fisico e la possibilità di svolgere la mia ricerca. Daniela, in un flash la domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Per prima cosa vorrei fare una distinzione tra italiani e Italia, perché per esempio nel mondo esistono scienziati italiani che svolgono ricerca ad altissimo livello e che sono davvero rinomati a livello internazionale. Invece per quanto riguarda l'Italia, la ricerca in Italia, quello che vedo dall'estero è che è quasi paralizzata. Vedo che non ci sono fondi sufficienti per la ricerca, infatti dobbiamo pensare che sia i finanziamenti pubblici che privati sono inferiori alla media europea. E inoltre, anche se esistessero questi fondi, dovrebbe cambiare un po' il modo in cui questi fondi vengono usati. Manca un sistema meritocratico che premi i ricercatori per le proprie conoscenze scientifiche, l'esperienza accumulata, i successi scientifici, cioè le pubblicazioni o per esempio le patenti, e manca chiarezza e semplicità nei concorsi pubblici. E in più mancano valutazioni periodiche sull'attività dei ricercatori, che devono essere svolte però da commissioni imparziali, per esempio commissioni internazionali. E infine io credo che dovremmo incrementare i salari, non solo per richiamare i cervelli in fuga o per non farli nemmeno fuggire, e per attirare anche i cervelli stranieri nei nostri centri, aumentare la nostra internazionalità. E perché penso che non investire nella ricerca significa non investire nel futuro nel nostro paese e perdere totalmente la competitività rispetto all'Europa. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Questa settimana apriamo l'ultima discussione estiva che ci accompagnerà fino all'11 di settembre. Stavolta chiediamo il vostro aiuto per migliorare ancora il nostro e vostro programma. E allora, cari ascoltatori, costruiamo insieme la nuova edizione di Giovani Talenti. Ci sono rubriche o spazi di approfondimento che vorreste vedere inseriti nel programma o argomenti che vorreste vedere trattati più spesso? Spazio alla fantasia. Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E non dimenticate di visitare il blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Attendiamo le vostre lettere che pubblicheremo online. Scriveteci. E siamo sempre alla ricerca di storie per le puntate autunnali di Giovani Talenti. Sei giovane under 40, laureato o laureata magari con master, emigrato o emigrata dopo svariati tentativi di affermarti professionalmente in Italia, tutti andati a vuoto? Espatriato o espatriata grazie a un contratto ottenuto per merito e selezione che ti ha permesso, pur ventenne o trentenne, di raggiungere posizioni professionali inimmaginabili per te in Italia? Nonostante ciò, non riesci a trovare posizioni equiparabili nel bel paese nell'ottica di un ritorno? Allora scrivici a giovanitalenti@radio24.it. Ti daremo voce. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti Estate, aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona estate da Sergio Nava.